Allora, salve a tutti ancora una volta. Cominciamo la chiacchierata con Nicoletta Dosio. È una chiacchierata avvenuta al telefono e registrata. E, insomma, il compito mio ora sarebbe quello di introdurre a Nicoletta come personaggio. Insomma, invece eviterò di farlo perché chi la conosce non ne ha bisogno. E chi invece non la conosce, questa intervista mi sembra una buona occasione per il primo incontro con lei. Quindi, sapendo che è una persona che è appena uscita dal carcere, è una militante no TAV da tantissimi anni, è incontrata nelle lotte per molti anni, continua, è caparbia come sempre, e ascoltate un pochino cosa ha da dirci. Allora, Nicole, io ti volevo fare un po' di domande. Tu già aspettavi che te venissero a prendere, quindi Eh eri, beh, sì. diciamo che eri abbastanza pronta per affrontare la situazione. Certo Sì. che tutto il Covid non te lo saresti mai aspettato, immagino, vero? Ma difatti io avevo già deciso perché me lo aspettavo perché avevo già a priori rifiutato di chiedere le misure alternative. E quindi se non chiedi le misure alternative, quando la pena è definitiva, la devi scontare. Per evitare, direi che loro avevano pure tentato di evitarla sta cosa perché erano venuti i carabinieri a casa a vedere qual era la situazione domestica, se Silvano era disposto a ricevermi ai domiciliari, anche se in realtà io la richiesta non l'avevo mai fatta. E allora ho mandato in più al magistrato di sorveglianza la dichiarazione che per le motivazioni per cui già avevo rifiutato i domiciliari una volta precedente, e non, se mi fossero stati dati i domiciliari, io comunque ero decisa a non rispettarli per tutta la serie delle questioni che abbiamo detto, perché volevo che a un certo punto si mettesse il dito nella piaga, perché volevo che uscisse fuori bene quali erano le motivazioni per cui non solo io, ma anche altri, tanti altri prima di me in carcere, tra l'altro c'erano Mattia, Giorgio e con la semilibertà Luca. E Ah, è vero, poi, anche lui. sì, e poi comunque anche come carcere preventivo, tantissime compagne e compagni già erano stati in carcere per la lotta contro l'alta velocità, ma non solo. E quindi volevo che questa cosa potesse venire fuori bene, cioè che la gente capisse le motivazioni per cui la nostra lotta era così dura e perché la nostra valle e la nostra lotta erano diventati un po' il laboratorio di una nuova repressione che poi è andata dispiegandosi nel tempo ed è arrivata fino ai giorni nostri. Quindi diciamo pure che la pianificazione di gestirsi pure un po' questo arresto, no? E questa fase detentiva che ti riguardava, tu già avevi avuto occasione di trasgredire ai domiciliari che ti avevano dato, no? Sì, E quindi sì, sì. diciamo E poi. anche quel passaggio è stato un passaggio forte per tutti in Italia. Diciamo che poche volte succedeva che ufficialmente qualcuno trasgrediva agli ordini del giudice. E così Ma pubblicamente. difatti, però c'è da dire una cosa, che io sia la cosa precedente, cioè dell'uscire dai domiciliari e del rifiutare i domiciliari. E sia questa cosa, e beh, sono riuscita a farla e ha avuto anche un po' di effetto perché intorno ho avuto tanta solidarietà. Quindi il fatto che uno non sia solo, e beh, lo aiuta anche ad affrontare delle situazioni difficili. Io non credo che una persona di per sé, certo, può essere un testimone importante, però il vero senso dell'iniziativa è se intorno nasce qualcosa, e intorno a questa cosa mia è nato davvero tanto, è nata una solidarietà in tutta Italia, anche da parte vostra, anche da parte di tantissime realtà che non conoscevo, ma che si sono identificate in questa protesta, che tra l'altro mi ha anche permesso di entrare in carcere e di poter vedere concretamente, di poter vivere e soffrire di persona quella istituzione totale contro cui noi ci eravamo schierati da sempre. E quindi anche questo è stato per me significativo, cioè venire realmente a contatto di chi in carcere soffre e dei motivi per cui il carcere è stato messo in piedi, che sono soltanto motivi di repressione, non certo di recupero delle persone che vengono incarcerate. E quindi ho avuto modo di conoscere tante storie intorno a me e di provare anche concretamente quella che è la solidarietà tra detenuti e soprattutto la chiarezza con cui c'è distinzione nettissima tra chi è detenuto e chi lo detiene. Quindi lì si confrontano due mondi antitetici, che sono poi quelli contro cui si è alzata la lotta degli oppressi di sempre. Lì non c'è dubbio, non possono esserci mediazioni o compromessi, o stai da una parte o stai dall'altra, o stai con chi è chiuso dietro le sbarre, o stai dalla parte di chi li chiude dietro le sbarre. Quindi non ci sono aree intermedie, e questo è chiaro a tutti, perché è qualcosa che uno mette, che uno viene a conoscere proprio sulla propria pelle e sui minuti, sulle ore, sui giorni che quotidianamente passi dietro quelle mura. Senti, la situazione interna con le altre detenute, con i secondini nello specifico, tu stavi nel carcere di Torino, no? Ricordiamo. Ero al carcere che è il carcere delle Vallette, si chiama Loro Russo Cutugno, Sì. però noi lo conosciamo come carcere delle Vallette. Ero nella sezione femminile, ho fatto un mese alle nuove giunte e quindi ho potuto vedere anche la situazione di che cos'è il carcere a regime chiuso, perché poi sono passata alla sezione cosiddetta aperta, che non significa che uno può girare tranquillamente come vuole, ma semplicemente che non è rinchiuso in cella per 18 ore su 24, insomma, riesce anche a passeggiare lungo il corridoio per alcune ore e quindi ha possibilità maggiori anche di contatto con le altre detenute. Poi sono stata ancora 2 mesi in sezione aperta, appunto. E quindi ho conosciuto sicuramente tante situazioni e io mi sono affezionata a queste donne che erano con me, erano donne di tutte le età, io ero la più vecchia di donne, sì, perché insomma era. E anche questo motivo, ecco, ho notato una cosa, che fuori è difficile trovarla in questo mondo dove ormai conta chi può consumare, chi può produrre e tutto il resto invece è considerato un peso morto da evitare, chi è anziano, chi non è ancora in grado di produrre, chi è povero, eccetera, e beh, dovrebbero far parte, secondo questo mondo, di una discarica sociale dove si usa e si getta tutto quello che è stato consumato e non serve più. Certo. In carcere i rapporti sono diversi, perché le persone anziane o anche le più deboli sono aiutate dalle altre detenute, non certo dal sistema carcerario, ma dalle altre detenute sì, per esempio. Io ho sempre trovato chi, non perché glielo chiedessi, ma perché me lo chiedevano loro, veniva ad aiutarmi a pulire la cella. Già la prima sera in cui sono entrata tardi, perché prima c'era stata la manifestazione davanti a casa mia, quando erano venute tante compagne e compagni, non solo a salutarmi, ma a opporsi concretamente al fatto che mi portassero via. Quindi sono arrivata, era già notte fonda in carcere e mi hanno messo in una cella con un'altra donna più giovane di me e lei immediatamente si è data da fare, mi ha preparato un caffè che ce l'aveva già pronto, era quasi freddo perché poi lì dalle 8 di sera in poi vengono comunque tolti tutti i mezzi, per esempio il il fornellino da campeggio, sì, te lo portano via, non te lo lasciano in cella. Comunque quello che aveva me l'ha dato e soprattutto si è data da fare per prepararmi il letto secondo le regole della casanza, che devi, perché non potendo avere delle lenzuola per esempio con i bordi elasticizzati, te li devi legare perché restino ben distese. Mi ha dato anche una lezione di come si può impartere. E così io mi sono, con le altre detenute, mi sono trovata davvero in una famiglia, nel senso che eravamo legate alla stessa catena tutte quante, e poi si parla, c'è tanto tempo per parlare. Quando cominciano a fidarsi di te, ti raccontano anche le loro storie, le loro vicende, che sono tristissime. E c'è tutto il mondo in carcere, c'erano delle giovanissime nigeriane, c'erano tante sinte, e c'erano anche delle rom, e c'è tanta tossicodipendenza, e comunque storie per esempio di immigrazione terribile, storie di sfruttamento e di gente che credeva di venire a lavorare e invece si è trovata sbattuta su una strada e sfruttata in tutti i modi. E cioè è tutto un mondo che non compare agli occhi della gente comune, ma che esiste. Sono gli altri due terzi del mondo, che è un mondo pieno di sofferenza, ma anche pieno di dignità, perché poi riescono a toglierti magari la vita, ma la rabbia invece ti cresce dentro, e la rabbia ti dà coraggio, ma ti dà anche un grande insegnamento, per cui lì dentro non è possibile non sapere chi è il tuo nemico. Quindi io con le altre detenute mi sono trovata non solo bene, ma davvero mi sono affezionata a loro, tant'è che ormai è un mese che sono fuori, ma direi che almeno metà del mio cuore è rimasto con loro. Ci scriviamo anche se la posta sta circolando lentissimamente. Io in carcere ho ricevuto tantissime lettere, e tante anche non ne ho ricevute. Qualche lettera sta tornando indietro adesso a chi me l'aveva spedita, dopo mesi che era stata spedita, perché anche la ricezione della posta lì dentro è a scelta di chi ti tiene incarcerato. Anche questo viene utilizzato come un elemento di premio o di punizione, e sono cose tue che ti spetterebbero, però il dartele o non dartele dipende dal loro arbitrio e non da regole precise che debbano essere rispettate. Fa una pressione psicologica, questo è un tipico, no? Nelle carceri, dove il direttore ha molto margine di decisione, per cui ti trovi, sì, che una cosa in realtà è possibile, come far entrare del cibo in un certo modo, poi un giorno, sì, non passa più, oppure in un carcere passa, in un altro non, sì, passa, ma poi, un libro... Ma poi delle cose più semplici, cioè che uno per poter comprare i gettoni per la lavatrice, per potersi lavare la roba con la lavatrice, debba fare la domanda al direttore, o per poter mandar fuori o ricevere delle cose particolari debba fare la domanda al direttore. E poi ci sono tantissime cose che non possono entrare. Ma perché non possono entrare? Perché poi te le devi comprare al mercato interno del carcere, no? C'è la spesina che passa, e i prezzi dei generi alimentari, ma anche dei generi di pulizia che ti devi obbligatoriamente comprare dentro il carcere sono assolutamente maggiorati, soprattutto in questi tempi di coronavirus, in cui non potevano neanche arrivare dall'esterno i normali pacchi di cose che dovevano essere mandate tutte confezionate, naturalmente, perché roba preparata in casa non ti può arrivare in alcun modo, e quindi già roba che deve essere comunque comprata, confezionata, comunque neanche più questo poteva arrivare, quindi tu dovevi comprare tutto dentro. Tutto dentro. E soprattutto perché il vito del carcere è davvero una cosa indecente, perché non io poi che sono vegetariana potevo mangiare delle cose limitatissime, Poi ho scoperto che anche per esempio il riso, anche il riso in bianco veniva condito con lo strutto, per cui mi faceva anche un po' schifo, non riuscivo a mangiarlo. Comunque anche le cose più semplici, che potrebbero essere confezionate in un certo modo, vengono invece scotte anche perché poi i generi utilizzati sono i peggiori, no? Roba che neanche chi mangia regolarmente. Bisogna avere davvero tanta, tanta, tanta fame per poter mangiare questa cosa, che potrebbe essere confezionata diversamente, ma anche questo fa parte della pena. E Tutto al allora, peggio, si fanno tutto in quello che questo. possono fare nel modo peggiore. Assolutamente. Allora, in questi tempi di coronavirus, dove dall'esterno non poteva arrivarti proprio più nulla, eri costretto a comprare in carcere e tutti i prezzi sono stati aumentati. Nico, E quindi quindi a un certo punto voi in carcere sapete che iniziano a chiudere e che il coronavirus si diffonde in un modo molto più veloce di prima e che ormai è presente nelle nostre comunità. Che succede all'interno del carcere? Quali sono stati i primi passaggi che il direttore della istituzione ha messo in piedi? Allora, i primi passaggi non ci sono stati affatto perché l'amministrazione veramente contro il coronavirus, ha messo in piedi poco o niente. Noi le notizie di quello che succedeva le sapevamo dalla televisione, quindi perché, ecco, la cosa che c'è in tutte le celle. Sono poi celle minime, di 2 metri per 4 e metà dello spazio è comunque occupato dal letto a castello, quindi cose minime dove si vive in due, ma c'è il televisore. E dalla TV scendevano quotidianamente dalle 8 del mattino alle 8 di sera, quando poi tutto viene spento, le notizie di quello che stava succedendo intorno. Comprese le notizie E delle prime rivolte nei carceri, no? Volevo sapere un pochino voi comprese, da dentro come sì, avete vissuto un po' quella fase lì. Noi le abbiamo sapute dalla televisione, vedevamo i detenuti dei vari carceri di Roma, di Milano, di Opera, eccetera, che erano saliti sui tetti e che appunto allargavano quello striscione dove si chiedeva l'indulto, dove si chiedeva l'amnistia. I motivi per cui, tra l'altro, io avevo rifiutato il fatto che qualcuno chiedesse per me la grazia, perché c'era anche stato poi questo questa proposta, questo tentativo politico di dire per lei chiediamo eccezionalmente la grazia. Sì. Io mi ero opposta a questo perché non si esce da soli, si deve uscire tutti quanti insieme e soprattutto bisogna mettere in discussione il carcere, poi anche di questo parleremo. Non credo che possa esserci un carcere migliore, credo che possa esserci un carcere chiuso. Le proposte che saltano fuori, facciamo nuove carceri più efficienti, eccetera, eccetera, ma le carceri più efficienti sarebbero carceri molto più repressive. Ora, l'alternativa al carcere non è un carcere migliore, perché? Perché un carcere non potrà mai essere migliore. Non potrà mai essere migliore perché la funzione del carcere non è quella rieducativa, riabilitativa, ma è punitiva semplicemente. Il carcere è la vendetta dello Stato, dell'istituzione sociale sui più deboli. Il carcere è più che mai un luogo di controllo sociale, di emarginazione e di punizione per chi è troppo povero e si ribella magari alla necessità immediata, cercando in qualche modo di intervenire in proprio per poterla risolvere. E quindi bisognerebbe anche raccontare le tante storie di chi in carcere c'è. Allora, noi abbiamo saputo di questa rivolta diciamo che all'interno del carcere, soprattutto la sezione maschile, aveva fatto una piccola battitura a cui in qualche modo aveva partecipato anche la parte della sezione femminile che era di rimpetto alla sezione maschile e quindi aveva potuto vedere la cosa. Il giorno dopo che succede? Succede che il direttore manda le ispettrici nelle varie sezioni a dire che il direttore vuol parlare, vuol sentire quali sono le esigenze, eccetera, eccetera. In poche parole mettono in piedi una specie di unità di crisi concertativa a cui sono presenti il direttore, sono presenti le ispettrici, i rappresentanti dei secondini, eccetera, sì, eccetera, le educatrici e due rappresentanti per ogni sezione, quindi due rappresentanti della mia, era la terza sezione, della prima sezione e poi delle varie sezioni maschili. Sì. Questi due rappresentanti come vengono scelti? Vengono scelti dalle guardie e non dalle detenute. E con delle caratteristiche, che poi per carità, una delle ragazze che sono andate giù cercavano anche loro di fare il possibile, perché poi sai, non proprio trovare un venduto in carcere che possa dire sì padrone al direttore è difficile. Direi che è impossibile, però c'è sempre chi magari osa un po' di più e chi osa un po' di meno, e quindi chi osa un po' di più non era certo benvenuto all'interno di questa. E quindi hanno fatto questa specie di tavolo di gestione della crisi da cui non venivano fuori notizie, o perlomeno i detenuti chiedevano delle cose che poi naturalmente non venivano concesse, e la cosa ha cominciato a diventare diciamo importante, anche significativa, nel momento in cui sono stati negati i colloqui con i parenti, i, no? Sì. E i colloqui con i, non avere i colloqui con i parenti vuole anche dire intanto non avere notizie da casa, non poter neanche godere di quel minimo momento in cui puoi rivedere la tua vita di sempre. Vuol dire non poter avere i pacchi che ti portano da fuori e i cambi di biancheria e le varie cose, e quindi era una cosa grave. Come è stata gestita questa cosa? Così, ignorandola, no? Sostituendo il colloquio con 10 minuti di telefonata in video, più per ogni ora di cui avevi disponibilità, per cui volevo poi dire due telefonate in più di 10 minuti alla settimana a casa, che non sinceramente non poteva essere la sostituzione. E poi l'altra cosa assolutamente gravissima che peggiorava ulteriormente la situazione del carcere è che le attività collaterali, cosiddette educative, non si facevano più. Per esempio, la biblioteca che io frequentavo e dove veniva una volontaria, che era poi una delle bibliotecarie del comune, a fare iniziative, avevamo messo in piedi un piccolo cineforum e poi anche momenti di attività musicale, altre cose, sempre in piccolo, no? Perché poi c'è una grossa biblioteca al maschile che non può essere frequentata dalla sezione femminile. E nella sezione femminile c'è una piccolissima biblioteca che però offre la possibilità almeno di uscire dalla cella e di stare un'oretta a seguire altre cose che non sono soltanto gli ordini delle cassiere. Allora, questo naturalmente chiuso. Chiusi i corsi di cucito che venivano fatti e che erano anche frequentati perché anche quelli erano un modo per avere un po' più di respiro, anche se poi non si imparava molto, perché se tu pensi erano almeno una quarantina di detenute che tantissime chiedevano di poter seguire il corso, poche erano accettate. C'erano poi due macchine da cucire per una quarantina di detenute, non è che qualcuno non ha mai potuto avvicinarsi alla macchina da cucire. Però era sempre un modo per poter uscire di cella e poter fare qualcosa che non fosse solo passeggiare quelle 2 ore d'aria tra i muri di un cortile che era in realtà un vascone dove tu andavi e venivi e non potevi fare altro se non camminare in tondo le ore della sezione carceraria. E Poi la... c'erano, le sì. celle sono rimaste aperte come prima, siete stati limitati nei movimenti all'interno del carcere, oltre alla chiusura della biblioteca, di tutte quante le varie attività del Tutte le carcere. attività. Allora, diciamo che gli orari delle chiusure, delle aperture delle celle erano sempre quelli. Ok. Per esempio, noi, fin quando io sono stata lì, però mi dicono anche adesso, non abbiamo mai avuto delle reali misure di prevenzione, di mascherine non ne abbiamo Mai mai viste. viste, non, tamponi non Tamponi, vabbè, parliamone quelli non l'ha visti neanche. nessuno in Italia. Non potevano entrare i parenti oppure gli educatori, gli insegnanti che venivano a fare i corsi scolastici di scuola elementare, eccetera. Però le secondine e i carcerieri andavano e venivano dall'esterno e quindi la questione del portare il virus all'interno ci sarebbe stato comunque. Anche loro non avevano mascherine, non avevano elementi, diciamo, Protezione. di sicurezza, di protezione, anche protezione nostra, protezione di tutti. E in che modo sta cosa è stata spiegata dal direttore? Per cui poi anche tra i secondini c'era un po' di malumore, dicendo che non dovevano mettersi le mascherine non c'erano, cioè non se le mettevano perché non c'erano. Alla fine anche gli ultimi che hanno resistito, hanno potuto entrare, erano gli avvocati. I miei avvocati, c'erano cinque avvocati che venivano a trovarmi perché ho tanti processi e quindi si erano un po' divisi i compiti, venivano a trovarmi tutti i giorni della settimana, tranne il sabato e la domenica. E anche loro si portavano la mascherina. Chi non aveva la mascherina, beh, a un certo punto l'hanno fatto entrare anche senza mascherina, pur sistemando la distanza di 3 metri con la supervisione dell'agente che controllava che non mi passasse chissà i virus oppure qualche bigliettino o altre cose, così succede lì dentro. Allora, il direttore dice alle secondine che non devono mettersi le mascherine per non ingenerare paura nelle detenute. E questa è stata la spiegazione della mancanza delle Mascherine. mascherine. Quindi, per cui tutto. E una cosa che bisogna dire è che noi lì dentro, in tutto questo periodo, non abbiamo mai visto i garanti dei detenuti. Allora, anche questo è un discorso da fare. Un garante di un detenuto non può essere un ufficio in comune o in regione dove uno sta seduto e se gli mandi magari delle istanze o delle cose non è detto neanche che ti risponda. Un garante del detenuto deve essere nel carcere, deve girare, deve controllare la situazione, deve All'interno. fare, cioè deve dar garanzia ai detenuti. Questo non succede. Io i garanti dei detenuti li ho visti quando appena sono entrata dentro e quindi sull'onda della mobilitazione esterna sono venuti una volta i garanti dei detenuti a vedere, a salutare, a vedere com'era la situazione e io ho detto sì, ma non venite a vedere me, guardate, e quindi gli ho detto un po' di problemi, ho detto guardate le celle come sono messe, guardate. E poi dovete tornare, dovete venire, perché qui dentro un garante dei detenuti Deve ha non stare lì. solo il diritto, ma il dovere. Però non succede. Per cui anche da quella parte lì di notizie noi non ne avevamo. Mentre la televisione ci riempiva di paura proprio con le notizie che venivano tutto il giorno c'era questo martellamento del virus che arrivava. E anche del fatto che ci fossero mobilitazioni, mentre come ti dicevo alle Vallette di vere mobilitazioni io non ne ho viste, anche perché questa maledetta diciamo tavolo di gestione della crisi con i due Rappresentanti. detenuti per sezione dentro, scelti dal direttore, eccetera, eccetera. Beh, ha avuto certamente un effetto per quanto riguarda il carcere di Torino, e cioè quello di abbassare il livello, non la rabbia, perché la rabbia era tanta, però ti sentivi anche un po' impotente, non ti arrivavano notizie, tante promesse mai mantenute. In poche parole, la cosa è andata avanti. Sono poi arrivati a fare la disinfezione. La disinfezione voleva dire che passava una detenuta con una pompa come qui noi usavamo nelle vigne ai vecchi tempi col verde rame, no? Per dare il verde rame con questo disinfettante e passava sta pompa di disinfettante sui blindi, ma neanche all'interno delle celle, soltanto all'esterno. e non succedeva altro. E poi passavano a dare una mezza bottiglietta di conegrina, di disinfettante, che prima non potevamo avere, perché tutto quello che è disinfettante, tutto quello che è conegrina, che è varechina all'interno del carcere non è proibito, essere. Te lo lasciano. Sì. E quindi c'era questa cosa con cui avremmo dovuto pulire, e la pulizia lì dentro, almeno nella sezione femminile, era già da sempre enorme, perché purtroppo lì dentro non si sapeva che altro fare se non pulire e pulire la cella e lavare per terra, eccetera, eccetera, per cui diventava un diversivo. Il problema della pulizia c'era, ma tutta a carico naturalmente delle detenute. E anche gli elementi per far pulizia ce li dovevamo comprare al mercatino interno, perché tutto quello che era sanificazione personale o dell'ambiente era carico del detenuto. Carico del detenuto il mantenimento, perché anche se uno non mangiava niente di quello che ti davano e non aveva servizi di alcun genere, nelle celle l'acqua naturalmente è fredda, la cella viene usata un po' come cucina, cioè la cella, poi c'è questo sgabuzzino, no? Che dovrebbe essere il bagno con i sanitari, e viene usata più che altro come frigorifero per l'estate, che si riempie il bidet d'acqua e si mette la roba al fresco lì, perché altrimenti non... Difatti tutti temevano l'estate, mi dicevano: vedrai l'estate come sarà qui dentro, perché non c'è neanche un minimo frigorifero di sezione, non c'è niente di niente, per cui la roba deperibile tu la mangi, non ti chiedi neanche più se è ancora buona o non buona, perché o mangi di questa minestra o salti dalla finestra. E quindi questa è la situazione. Poi abbiamo, la cosa è andata avanti in questo silenzio generale, in questa immobilità totale, e poi abbiamo fatto tutti la domandina per poter uscire, no? Con la questione del coronavirus. In realtà io sono uscita per questioni di salute e di età, e con me sono uscite altre su una cinquantina di detenute dalla mia sezione, siamo uscite in tre o quattro. E tutte le altre invece sono ancora là dentro. Questo è un po' il punto, che alla fine sembrava che qualcosa stesse accadendo, invece ne è accaduto ben poco. Molte persone che hanno fatto la domanda non hanno avuto risposta, ancora aspettano. Non hanno avuto risposta. In compenso però continuavano a entrare persone, perché dal carcere non si esce, ma in carcere si continuava ad entrare. E allora chi entrava in carcere veniva mandato alle nuove giunte, li vedevi, facevano l'aria per conto loro con la mascherina sulla faccia, e quando io sono uscita, è uscita con me una ragazza che era stata arrestata, era alle nuove giunte ed era malata, aveva la febbre, e io questa cosa l'ho saputa perché la secondina che doveva accompagnarci all'uscita si era rifiutata di accompagnarci, proprio perché c'era lei con la febbre. Io questa protestava, e tra l'altro non aveva neanche la mascherina lei, quindi... Allora, sta ragazza con la febbre, mandata fuori per togliersi il problema, è stata lasciata fuori dai cancelli. Lei ha chiesto: e adesso che cosa faccio? E le hanno detto: adesso tu prendi il pullman che si ferma qui davanti, vai alla stazione di Porta Nuova, ti prendi il biglietto per Genova e torni a casa, perché questa ragazza era una ragazza di Genova. E quindi, lasciata così in mezzo alla strada, senza nessuna assistenza di nessun genere, con la febbre, perché, con la febbre addosso, quindi altro che contagio, cari miei, se uno ha... Però, quindi, la situazione è questa. Anzi, si arrivava al punto di dire che stare in carcere in fondo era una garanzia, perché non avendo contatti con l'esterno non potevamo ammalarci. E il numero dei contagiati reale noi non l'abbiamo mai saputo, e ancora adesso non si sa. Sappiamo che è stato attrezzato quello che era il blocco arcobaleno per ricevere i contagiati, E se qualcuno viene contagiato in sezione, adesso tutta la sezione è messa in quarantena. La sezione messa in quarantena vuol dire che non passano neanche più i controlli, per esempio, si lasciano il carrello con le vivande sopra, per i controlli passano, non passa l'assistenza. Il carrello con le vivande viene lasciato in fondo alla sezione e a turno una delle detenute passa lei a distribuire la roba, per cui è questo. Quindi sei chiuso più di sempre perché non puoi più fare l'ora d'aria, non puoi più fare niente. Questo succede. I parenti dei detenuti avevano organizzato un momento di presenza e di protesta proprio davanti ai cancelli, che poi non è potuto avvenire. Io l'avevo saputo perché avevo ricevuto un telegramma, quindi aspettavo anche questo momento per vedere, dico, può darsi che qualcosa succeda. E quella sera avevano cominciato a chiudere le strade e la possibilità di arrivare, per cui un piccolo corteo è stato disperso immediatamente e lontano dal carcere, quindi non sono arrivati neanche davanti al cancello, c'erano parenti e c'erano solidali. In compenso, io ho visto che cosa succedeva all'interno del carcere. Il carcere era blindato più che mai. I cortili verso il maschile, ma anche verso il femminile, erano pieni di camionette e di blindi. Sulle mura passeggiavano le sentinelle, hanno passeggiato tutta la notte, c'era l'elicottero sul carcere e dentro le sezioni è stata rinforzata la presenza delle guardiane che giravano per le sezioni facendo finta di parlare amichevolmente, ma controllando se qualcosa stava per succedere. Io poi sono stata controllata in particolare perché ero sempre controllata in particolare. Anche questo, in che modo avveniva questo controllo? Chiedevano alla mia compagna di cella, chiedevano alle altre donne della sezione se facevo discorsi strani, che cosa facevo e che cosa dicevo in biblioteca. Se passavo roba da leggere o roba del genere, e loro glielo chiedevano dicendo che era una cosa riservatissima. Difatti le mie compagne me l'hanno sempre detto e loro mi hanno sempre difesa da questo punto di vista, perché hanno anche tentato in qualche modo di isolarmi dalle altre donne, però insomma, per fortuna esiste qualcosa che va al di là delle loro divise, dei loro manganelli, della loro ingiustizie quotidiane, perché il guaio del carcere è proprio questo, non c'è bisogno che arrivi la squadretta a picchiarti. È l'ingiustizia quotidiana, l'uso dei regolamenti fatto a muzzo e in base a chi c'è, un giorno ti perquisiscono, tutte le volte che scendi, quando scendevo in biblioteca, la volta dopo ti dicono vada pure, arrivano e ti buttano all'aria la cella per fare una perquisizione, arrivano e ti fanno le battiture quando magari tu ti stai vestendo, sei appena uscita dalla doccia. E devi uscire così come sei messa, perché loro devono aprire le finestre in pieno inverno e continuare a battere delle sbarre che non so con che cosa noi potremmo tagliarle, visto che in carcere non è permesso anche il minimo. C'è la limetta delle unghie, ma di cartone, e non Di è. Ho cartone. provato, ma non serve. Ecco, No, non ce la fa. Servono molti non anni si di taglia. carcere per Non si taglia, riuscirci. eh sì, non si taglia niente. E quindi è tutto questo cerimoniale pazzesco del controllo, perché il fine del carcere l'ho scoperto ed è stata un'intuizione che poi ti viene quasi immediata. Il fine del carcere non è certo di mettere in sicurezza la società da parte di incalliti criminali che non esistono, è quello di ridurre le persone all'obbedienza cieca. Tu non devi più pensare, è impossibile ed è vietato pensare criticamente, è vietato avere una propria visione del mondo. Tu devi essere trasformato in una cosa, in un oggetto nelle loro mani. Quando sei stato ridotto a questa obbedienza cieca, allora forse sei pronto per essere reinserito in una società che vogliono più che mai di schiavi. Beh, ricordiamo che in questo periodo è vero che è speciale, che è solo un acceleratore di tutto quello che è già, di tutto lo schifo che già è, quindi c'è stato solo un aggravamento veloce, veloce di quello che già c'era. Però hanno perso la vita molte persone in queste rivolte, che l'hanno fatte passare come tossici che non vedevano l'ora di assaltare l'infermeria per consumare metadone o qualsiasi altro farmaco. Quindi è chiaro che Sì. non crediamo a questo, lo sapevamo da subito, perché molte delle morti in carcere hanno ben altre ragioni. Ma comunque, allora, anche questo fatto che una persona debba, lì da noi per esempio c'era il fatto che alcune detenute quando non ne potevano più cercavano di sniffare che cosa? La bomboletta del Del gas. gas, chiaro. Sì. Allora, il fatto che una persona debba essere ridotta a questo, se anche fosse vero che nel carcere la prima cosa che hanno fatto è stata di andare nell'infermeria a cercare di prendere qualche sostanza, questo dovrebbe far pensare. Perché vuol dire che il carcere ti riduce ad una condizione di stress e di disperazione tale. Che il carcere è soltanto questo, è un luogo di morte. Poi sappiamo Quindi perfettamente che chi si ammala in carcere, cioè se hai dolori di qualsiasi tipo, prendi soltanto farmaci generici, ma se vuoi farmaci che addolciscano, che distruggano un po' il cervello per continuare a stare rinchiuso dentro una cella, sono sempre disponibili dalle ti infermerie, danno tutto tutto quello quello che che vuoi, vuoi. Questa la conta lunga rispetto a qual è la questo gestione non dei solo, farmaci all'interno ma delle. c'è una cosa strana, che tutte le donne si lamentano di ingrassare, cioè a tutte viene la pancia gonfia, vengono le gambe gonfie, perché evidentemente anche in quel cibo che ti danno, se tu lo mangi, è un cibo che contiene delle sostanze per calmarti, delle sostanze un po' come gli animali all'ingrasso, insomma, hai capito? Danno estrogeni, questo è una cosa che, ancora una cosa vorrei dire, sono stati aboliti i manicomi e sono stati aboliti gli OPG, cioè quelli che erano le detenzioni dei Psichiatri. malati mentali all'interno, psichiatrici all'interno del carcere. In realtà non sono stati aboliti affatto, perché da noi, io l'ho visto con i miei occhi, le prime celle delle nuove giunte sono le celle per la contenzione, intanto le celle di rigore, e per la contenzione dei malati psichiatrici. Allora, io ho visto una ragazza che aveva avuto delle crisi e si era ribellata alle secondine che l'avevano anche picchiata per tenerla ferma, che è stata chiusa in una di queste celle completamente nuda. Io ero appena entrata, quindi era gennaio, lì dentro fa anche freddo. Allora, completamente nuda su un materasso messo in terra, senza alcun genere, sotto la telecamera di controllo. A me era capitato di uscire dalla cella, mi avevano fatto uscire perché dovevo andare a ritirare dei telegrammi, e quindi ho sbirciato dallo spioncino quando l'ho vista in queste condizioni, ho chiesto perché era in queste condizioni. A parte il fatto che mi hanno mandata malamente in cella. Però una delle secondine mi dice: perché questa vuole impiccarsi, lo farebbe anche con le mutande. Allora, questa ragazza è costretta su un materasso, senza coperte, senza niente, giorni e notti. Erano venuti a trovarmi, era il periodo in cui c'erano i garanti, e io ho detto ai garanti: andate a vedere com'è quella situazione. Andate a vedere com'è quella situazione. Erano venuti dei parlamentari, li ho mandati a vedere questa situazione. E la cosa si è poi sbloccata, ma assolutamente non immediatamente. E le altre detenute mi dicevano che era una cosa normale. Quindi il carcere è anche ospedale psichiatrico della peggior specie. E quindi queste celle sotto i riflettori, senza alcunché, neanche di. Io no, ma neanche. Nessuno vorrei che fosse ridotto in quelle condizioni, ma insomma dico, questa non muore impiccata, ma muore di polmonite. Questo l'ho visto io con i miei occhi, quindi questo è il carcere. E anche questa cosa, e le punizioni sono questa cosa, perché un malato e uno che si ribella subisce lo stesso trattamento, quindi questo è il carcere. I'll build that little home that's meant for two, from which I'll never run. Who would you? And so all else above, I'm dreaming of the man I love. Allora, Nico, ti ringrazio moltissimo. Avrei potuto parlare anche un pochino di quello che succedeva in valle, però ci siamo allungati già molto e per questo ti chiedo se possiamo risentirci magari la prossima settimana e parliamo della lotta contro il treno alta velocità in Val Susa e non solo, se ti va. Assolutamente, sì. Per me la lotta contro il carcere, per l'abolizione del carcere, per l'amnistia subito, ma per l'abolizione del carcere in prospettiva, e può essere fatto se la società comincerà a funzionare come si deve e quando la gente non sarà costretta ad andare a prendere qualcosa gratuitamente nei supermarket, prendendosi poi rapina perché magari cerca di divincolarsi e di scappare, e quindi si fa anni di carcere come se fosse un rapinatore, quando tutto questo non sarà più vero, mentre esiste così. La lotta per questo per me è importante, esattamente come la lotta contro il treno ad alta velocità, perché penso che l'ingiustizia sia comune e la fonte di questa ingiustizia è la stessa. E cioè è davvero il fatto del mondo della guerra tra poveri utilizzata dai pochi grandi potenti che cercano di dominare il mondo con la guerra all'uomo, con la guerra alla natura. E quindi il fronte è assolutamente comune. Ci vuole una battaglia culturale fortissima, perché contro questo luogo comune che in carcere ci sono i delinquenti, io dico che il vero responsabile, la vera grande delinquenza siede al potere, chi vuole le carceri, non chi il carcere lo subisce, è il delinquente. E quindi contro tutto questo forse il giustizialismo, per cui c'è chi implora le manette per chi è scomodo, questo giustizialismo deve essere sconfitto nelle coscienze di ognuno. Quindi far sapere che è veramente carcere, chi c'è in carcere, il costo umano, sociale, oltre che economico, che il carcere viene ad avere su tutta quanta la società è una cosa fondamentale. No, grazie Nicoletta. Ci sentiamo se ti va prossimamente e continuiamo comunque a costruire questa cultura anticarceraria, nel senso che comunque assolutamente la cultura anticarceraria è una cultura anticapitalista, perché diciamo che è così, questo perché è la fonte di tutto è questo, ed è anche una cultura contro la guerra, e quindi tutto torna, chi ci domina lo sa bene, è per questo che vuole reprimere ogni tentativo di ribellione. E poi bisogna avere, per chi è in carcere, intanto chi è in carcere non deve sentirsi solo, non deve sentirsi isolato, quindi anche solo una lettera che arriva dal mondo esterno